Va bene, allora questa è la lezione di comunicazione multimediale del 26, 26? Sì. Del 26 novembre. Allora, io ottimisticamente oggi vorrei finire Saussure, ma praticamente non ho più di 2 ore, insomma. Anzi, prima mi devo procurare un orologio perché. Allora, mi pare che l'ultima volta abbiamo. Dunque, vi ho parlato del segno linguistico, secondo Saussure, del rapporto tra significante e significato, dei due principi fondamentali, secondo Saussure, ma non li abbiamo ancora approfonditi bene, quindi andremo avanti ancora un po' su quello, che sono quelli dell'arbitrarietà del segno e della linearità del significante, giusto? Mi sa che più in là non sono andato, ok? Carattere lineare del significante. Allora, siamo per chi volesse essere. Ah, no, ecco, una cosa, devo dire che non ve l'ho detto, ve la dico adesso. Allora, sto preparando delle dispense, quindi io ci terrei che voi aveste per ognuno degli autori che noi facciamo, siccome non posso chiedervi, adesso mi rendo conto di leggervi questo e poi altri quattro lì, cioè, no, non ha tanto senso. Quindi praticamente vi darò io le parti. Alcune delle quali sono quelle che ho letto, più altre, insomma, vi darò io direttamente, chi vuole leggere solo in un'altra lingua, in particolare nella lingua in cui è stato scritto, e cioè in francese, ben venga, evidentemente, ma io ve lo darò in italiano, perché questa è l'edizione che ho. Quindi vi darò sicuramente questo, sicuramente farò Austin e sicuramente la relatività linguistica, sempre Woolf, perché ce l'ho già pronto da anni, quindi quelle. Siamo a posto. Le cose che farà Loretta, non lo so se farà la stessa cosa o se la faremo, adesso devo ancora discuterne con lei. Comunque, semmai ci sarà anche, voi dite, vabbè, fin troppa roba, però insomma, almeno qualche pagina si vuole, insomma, lei quindi farà Jacobson e benvenuto. Con questo voi praticamente avrete una. Non facciamo Chomsky, Chomsky è il grande rimosso di questa, mi rendo conto. Io mi sono laureato tanti anni fa con una tesi su Chomsky, quindi sono stato chomskiano anche per vari anni, poi ovviamente sono stato illuminato dalla verità come Saulo sulla via di Damasco e mi sono convertito all'anti-chomskismo, quindi all'anti-universalismo. Però la linguistica contemporanea è tutta quanta chomskiana, non ha tanto senso fare Chomsky perché praticamente tutta la linguistica contemporanea è chomskiana nel bene e nel male, va bene. Comunque insomma vi daremo quindi questo ausilio, questo sussidio didattico. Allora stiamo facendo adesso, abbiamo fatto l'ultima volta il capitolo primo della parte prima del libro di Saussure, cioè i principi generali. La parte, il capitolo secondo si chiama Immutabilità e mutabilità del segno. Non ve lo faccio in maniera analitica, perché poi la cosa più importante per me è il capitolo terzo, cioè la distinzione tra, che voglio introdurre oggi, tra sincronia e diacronia. Però accenniamo ai punti principali di questo capitolo, che comunque è molto breve. Carattere arbitrario del segno non significa semplicemente soltanto che per ogni dato significante la relazione tra significante e significato è arbitraria. L'oggetto cane, si dice in modi diversi in tutte le lingue possibili e immaginabili, quindi è ovvio che non c'è una necessità, non è che quella roba lì, quell'animale lì fatto in quel modo si deve chiamare per forza cane, si chiamerà cane, perro, si chiamerà chien, si chiamerà hound, si chiamerà hound, come cazzo gli pare nelle varie lingue. Ma non è solo questa l'arbitrarietà del segno linguistico, secondo il L'arbitrarietà del segno linguistico è arbitrarietà di rapporti, cioè non necessità. Non è necessario che siano così, non solo i rapporti tra il singolo significante e il singolo significato, ma neanche tra i singoli significanti tra loro. non è detto che non c'è nessuna relazione necessaria tra il verbo parlare, azione che sto facendo io, e il verbo ascoltare, che è l'azione che state facendo voi adesso. Non c'è nessuna relazione necessaria tra né tra questi due significanti né tra questi due significati. Certamente questo vale in generale per le caratteristiche generali della facoltà di linguaggio negli esseri umani. Certo che all'interno di ogni singola lingua, una volta che il processo storico ha creato una certa relazione tra significanti e significati, è chiaro che quella è determinata. Nessun parlante singolo, io adesso non posso mettermi a parlare una lingua completamente parapunzillata da me, nella quale i ferifotti e piripingoli vengono pringati nel senso del pristupo piribangolo. E voi non avete capito un cazzo di niente, è ovvio, perché io mi sono inventato le parole. Ho provato a fare una innovazione linguistica individuale e questa fallisce. Fallisce perché non è condivisa con voi. Io ho detto una frase che non ha nessun senso, ho ovviamente tenuto i connettivi sintattici a posto in modo che voi poteste capire che era una sorta di simulazione di una frase, ma evidentemente... Allora, arbitrarietà del segno non vuol dire che all'interno della lingua uno può fare quello che gli pare, non può fare quello che gli pare, perché la lingua gli arriva già con una storia precedente. E questa storia ci impone di usarla, abbiamo dei margini di creatività, questo è ovvio, ma ci impone di usarla in generale secondo un modo che sia comprensibile, no? A tutti i parlanti di quella lingua, se no non ha senso, se no gli stranieri saranno stati meno colpiti di voi italiani dalla mia strana frase, perché tanto sono parole in cui... Se un po' che stanno qua capiscono anche loro che erano parole totalmente inventate, finte, che non esistono nel lessico, diciamo, italiano, però allora in altri termini l'arbitrarietà del segno quindi significa fondamentalmente, o perlomeno ha in questo momento, vorrei sottolineare due conseguenze. La prima è che non è mai possibile descrivere una lingua andando a indagare specificamente i rapporti tra un singolo significante e un singolo significato. Non ha senso, quello è qualcosa che ci viene dato. Il verbo parlare e il concetto, quindi l'immagine acustica parlare del verbo parlare e il concetto espresso dalla parola parlare, hanno una relazione che ovviamente è già data, non la posso scardinare io, non posso decidere che parlare significa mettersi gli occhiali, non può voler dire quello. Quindi la sostanza, il termine è difficile da trovare, chiamiamola la significazione, cioè il rapporto tra significanti e significati, non può essere limitato a un rapporto studiato tra il singolo significante e il singolo significato. Il rapporto tra significante e significato nel caso singolo assume tutto il suo valore in relazione al sistema generale della lingua, è il sistema generale. Quindi è per questo che nel capitolo che vi ho letto l'altra volta Saussure fa polemica contro la concezione del linguaggio come nomenclatura. Il linguaggio non è una nomenclatura, non è un sistema di significanti costruito che si sovrappone a uno dei significati già dati. No, significante e significato si costruiscono contemporaneamente, contestualmente, correlativamente, c'è una relazione tra loro. Non c'è il significato, no, non esiste prima e senza il significante. Ma questo ha delle conseguenze. Questo vuol dire, vedremo poi oggi, vedremo entro certi limiti, che è dubbio, non è sicuro, ma è dubbio che l'essere umano possa formulare dei pensieri chiari e coerenti senza il linguaggio. Probabilmente il contenuto mentale, non che non esiste, certo che esiste e può esistere anche indipendentemente dal linguaggio, sicuramente il bambino da 0 a 1 anno ha dei contenuti mentali, ma forse è difficile descrivere questi contenuti mentali con la parola pensiero. Forse non è corretto dire che il bambino pensa, nel senso in cui pensiamo noi, cioè nel senso in cui siamo capaci di stabilire dei confini, delle differenze, delle relazioni, anche lui stabilisce relazioni, ma non le stabilisce nel senso, perché? Perché non ha ancora lo strumento linguistico. Non avendo lo strumento linguistico, sta costruendo piano piano, è un processo, ma non ce l'ha ancora acquisita questa relazione tra significante e significato. Ripetiamo, significato non vuol dire relazione tra l'interiorità dell'uomo e il mondo, ma tra due zone diverse dell'interiorità o comunque dell'attività umana, no? Quella fonetica di espressione, di costruzione di catene foniche, di catene sonore, e quella concettuale di messa a punto di linguaggi. Allora, primo, l'arbitrarietà del segno linguistico presuppone, anzi, è una conseguenza del linguaggio come sistema. Del linguaggio come sistema generale, è incomprensibile al di fuori della considerazione del linguaggio come sistema. Attenzione, siccome Saussure viene considerato, credo, secondo me abbastanza a torto, ma insomma come iniziatore della cosiddetta corrente o componente o pensiero strutturalista del XX secolo, bisogna almeno notare questa cosa, che nella sua opera, insomma, in questo libro che vi ho spiegato già molte volte come è stato costruito, quindi che complicazioni ha, comunque il termine struttura voi non lo trovate quasi mai. Questo vuol dire che non era un termine che Saussure amava usare nelle proprie lezioni, perché se nessuno dei suoi studenti l'ha mai annotato, eccetera. Però il termine sistema invece sì, ovviamente questo è uno dei caposaldi della linguistica sassuriana, ed è proprio questa decostruzione, questo rifiuto di una concezione atomistica del linguaggio, lui la chiama appunto nomenclatura, io dico referenziale, cioè i contenuti sono già dati nel mondo, sarebbero già ordinati, e io gli aggiungo, come la narrazione della Bibbia, no? Cioè, cosa fa Geova quando crea Adamo? Perché crea Adamo, Geova? Perché questo signore con la barba, con la barbona bianca e con l'occhio dentro un triangolo, chissà perché stia l'occhio dentro un triangolo. Il concetto del battesimo, dare il nome a... Dare il nome a che cosa? Al mondo. No, lui dice sì, al mondo, ma delle cose che gli dice, Geova gli dice alle piante e agli animali, cioè sono le piante e gli animali che vanno nominati, non si capisce. Comunque, esatto, questa è la cosa. Nella Bibbia la concezione referenziale del linguaggio è chiarissima, no? Cioè il mondo c'è già, l'ha fatto Dio, e quindi gli animali ci sono, le persone, tutto il mondo è già ordinato, l'ordine c'è già. Però non c'è linguaggio, non ci sono i nomi, questa è quella che Saussure chiama concezione del linguaggio come nomenclatura, cioè diamo dei nomi alle cose. È una palla, non è così, il linguaggio non è questo, non è dare dei nomi alle cose, il linguaggio è creare contemporaneamente, quando uno mette, quando una comunità, insomma, col tempo costruisce uno strumento linguistico, contemporaneamente costruisce il mondo, questo è contemporaneo, cioè non sono due cose separate, non è che il linguaggio arriva a precup, dopo il mondo, dopo che abbiamo già messo ordine nelle cose. Allora, primo, il linguaggio come sistema. Conseguenza di questa cosa, e quindi conseguenza che apparentemente sembra in contraddizione con l'arbitrarietà del segno, ma non lo è. Non c'è alcuna arbitrarietà a livello individuale, per noi singolarmente il segno non è arbitrario. Dobbiamo per forza, se devo farvi capire che sto parlando di sti cazzo di oggetti, devo dire, devo pronunciare la parola occhiali in italiano, non posso, eh? Se parlo inglese spectacles, se parlo un inglese molto forbito, se no glasses, se no con tutti gli accenti degli Stati Uniti possibili e immaginabili che non mi riesce ad arrivare. Insomma, capito, non c'è un'arbitrarietà, se devo dire qualcosa sono forzato a... L'arbitrarietà sta a livello generale del sistema, è sistematicamente che c'è l'arbitrarietà, giusto? Seconda grande conseguenza, questo non vuol dire che il sistema linguistico non è immutabile, che non cambia mai, non è vero, cambia. C'è una pressione storica dovuta a una quantità di cause indescrivibile, inenarrabile, è impossibile trovare tutte le cause del mutamento linguistico, ma tutte le lingue cambiano. La lingua che noi, che gli italiani parlavano 5 secoli fa, 4 secoli fa, il secolo scorso, è diversa dall'italiano che noi parliamo adesso. Il francese che parlano i canadesi è diverso da quello che parlano i francesi, perché i canadesi si separarono dalla comunità francese nel XVI secolo e da allora quel francese ebbe una evoluzione di un certo tipo, il francese del continente dell'Europa la ebbe di un altro tipo. Nel nostro piccolo l'italiano che parlano quelli del Canton Ticino in Svizzera è lievemente diverso da quello che parliamo noi, ha delle parole diverse, dei modi di dire diversi, delle cose poco, non tantissimo, perché siamo a un tiro di schioppo, non è che siamo così, non è come il Canada e la Francia, però un po' è diverso anche lì, perché quella è una comunità che nel XIII secolo parlavamo la stessa lingua, sicuramente, XIV, quello che sia, in realtà si parla la stessa lingua che non è l'italiano, cioè sia gli attuali ticinesi che gli italiani parlavano il comasco, cioè il dialetto lombardo di Como, e infatti ancora adesso i ticinesi hanno un accento vagamente riconducibile a quello di Como, cioè per me è difficile distinguere un ticinese da un comasco, per me, perché non sono né, se fossi comasco probabilmente invece saprei distinguerlo, ma, ecco, poi dopo però lì c'è stata una comunità. L'italiano che è maturato lì dentro è un italiano un pochino diverso da quello che è maturato nella più grande, maggiore, cioè molto maggiore comunità. Quindi è chiaro che c'è un cambiamento linguistico, ma quindi questo cambiamento, Saussure dice la lingua non può essere assimilata a un contratto puro e semplice, non è un contratto, cioè, adesso ci mettiamo d'accordo e parliamo così, no, noi parliamo così per un certo uso, per una pressione dell'uso, e non ci accorgiamo neanche che l'uso ci porta a cambiare i nostri modi di dire, a cambiare, ogni tanto qualcuno se ne accorge, io, gnucco e ostinato come sono, mi ostino a non resistere ad alcuni, non a tutti naturalmente, ma ad alcune variazioni dell'italiano, per esempio io odio l'uso della parola decade per indicare decennio, però so che non è totalmente sbagliato, perché già quando sono nato io la parola decade, che significa prevalentemente 10 giorni, un periodo di 10 giorni, però secondariamente già quando ero piccolo io poteva anche voler dire ogni tanto 10 anni, però quando ero piccolo io la parola di gran lunga usata per 10 anni era decennio e non decade. Perché oggi è decade e non decennio? Vediamo chi lo sa. Chi ha un'ipotesi plausibile, perché oggi decennio non si usa quasi più, si usa quasi sempre decade anche per dire 10 anni? Impossibile che non lo sappiate. Come si dice decennio in inglese? Decade. In inglese non esiste nessun'altra parola per dire decennio che non la parola, la ex parola latina decade, trasportata pari in inglese. Quindi la pressione dell'inglese oggi su di noi fa sì che la parola decade, che ripeto, non è un errore totale, perché effettivamente anche nell'italiano c'era questo, però era un uso largamente minoritario. Tutti i libri che voi leggete prima del 1990 non trovate mai la parola decade usata nel senso di decennio, usate sempre decennio. Decennio, deca, annus, decennius, è sempre di origine latina. la pressione dell'inglese fa sì che oggi invece la parola decresce. Allora, a me mi sta sul cazzo, quindi io faccio la mia battaglia contro lui, però mi rendo conto che è stupido, e quindi io lo faccio così, cioè, semplicemente per far vedere che sono... No, neanche che sono figo, che sono rompi coglioni, e va bene, però mi sta bene così, ok. Però insomma, sono tutte robe stupide, cioè andare contro l'uso, cioè una roba, cioè non esiste, l'uso è sovrano, Qual è lo scrittore italiano che più di tutti nell'Ottocento teorizzò l'uso come fattore della lingua? Gli italiani, non chiedo agli stranieri, no? Dimmi? Manzoni, ovviamente. Manzoni, sapete che scrive praticamente, non scrive in dialetto comasco, anche lui, insomma, più o meno. Como è il posto, cioè Lecco, insomma, cioè la provincia di Como è il posto dove si svolge come si svolge in gran parte, poi con delle appendici a Milano, ovviamente, quando c'è la peste, quindi, non è che lui avesse scritto Fermo e Lucia, non è scritto proprio in comasco adesso, però è scritto in un italiano un po' più grezzo, un po' più aspro, che non, poi cosa fa? Sapete cosa fa Manzoni quando da Fermo e Lucia deve scrivere per un scrittore? Tu lo sai, sì, dai. Dillo, cosa fa Manzoni per passare dalla prima stesura che siamo a Fermo e Lucia ai promessi sposi? Va a risciacquare, come dice lui, i panni in Arno, cioè va a stare circa 6 mesi a Firenze per familiarizzarsi con il fiorentino, con il toscano, che è la vera lingua italiana. Noi in realtà non parliamo italiano, l'italiano è una variante depurata di alcune cose dialettali del toscano. Pare più del senese che non del fiorentino, che gli altri hanno modo di dire. Il senese pare sia la vera culla della lingua italiana. Però non lo fa in maniera pedante Manzoni, comunque lo fa in maniera tenendo conto dell'italiano del toscano parlato alla metà dell'Ottocento, cioè più o meno nel periodo in cui si scrive in Sapone. Cioè l'uso è indubbio che c'è una pressione, diciamo, storica, o chiamiamola diacronica per usare un termine più, che va in quel senso lì. Opporsi all'uso, ripeto, è stupido. Io rivendico il diritto di fare anche qualcosina di stupido nella vita, ne faccio tante, ne faccio poche di intelligenti, tante di stupide, ma sono cazzi miei. Comunque, però so bene che queste mie piccole idiosincrasie non hanno nessun valore, insomma, me lo tengo come sono. Allora, quindi c'è una mutabilità del segno, diciamo linguistico, è l'impronta della storia, è l'impronta dell'uso linguistico, è una comunità che fa la lingua. La comunità si trasforma, la comunità cambia impercettibilmente, rapidamente, più o meno rapidamente, modi di vita, stili di vita, eccetera, quindi cambia anche il linguaggio. Non ci sono cristi. Però di volta in volta, attenzione, di volta in volta, a ogni stadio, quando io fotografo uno stadio del cambiamento, a quello stadio, quindi sincronicamente, il segno è arbitrario, il sistema di segni è arbitrario. Cioè non c'è nessuna logica referenziale all'interno nella pressione storica che informa, che determina i cambiamenti, le mutazioni del linguaggio. Non c'è nessuna necessità, non c'è nessun rapporto necessitato, necessario, imprescindibile. Trovate l'aggettivo che vi sembra che è migliore per voi. È arbitrario questo cambio, totalmente all'interno del sistema, totalmente arbitrario. Non c'è nessuna ragione perché quel suono quella catena di suoni indichi quel certo concetto, e attenzione, non c'è neanche non c'è nessuna ragione perché quella catena di suoni differisca da quell'altra catena di suoni, perché cane differisca da pane, è un caso che cane differisce per un suono consonantico da pane, quindi l'opposizione cane-pane è un'opposizione pertinente, dicono i semiologi, all'interno della lingua, è pertinente, cioè sappiamo che vuol dire qualcosa, se dico cane indico una roba, se dico pane indico un'altra, ma non c'è nessuna necessità in questa differenza, non c'è nessuna ragione, ma non solo, attenzione, non c'è nessuna ragione neanche nella classificazione che io faccio dei concetti, non c'è nessuna ragione neanche in questo. Se mi voltavo un segnalibro in più era più felice. Probabilmente voi conoscerete, non so se non la conoscete, però non ve la posso recitare, non la so, a memoria, ma ve la posso accennare. C'è una famosa classificazione cinese degli animali, che non è chiaro se la sia inventata Borges, o Borges stesso, sapete che faceva il furbo, insomma, e quindi si inventava delle cose, poi diceva, le ho trovate in uno stranissimo libro, che poi nessuno lo sa, perché era difficilissimo andare a controllare, diceva, come cazzo trovi, dice, un libro dell'Ottocento. Allora dice, ah, in questo libro dice, ho trovato questo, io sospetto che se la sia inventata lui. Ed è una classificazione degli animali, e è molto famosa perché poi la riprende Foucault, l'hanno ripresa un casino di persone, ma in particolare la riprende Foucault all'inizio delle parole e le cose. Terzani no, Terzani penso mai avrebbe stato Borges in vita sua. Gli era estraneo. Sì, sì. No, visto che c'era fuori Tiziano, allora dice, gli animali si distinguono in A, appartenenti all'imperatore, B, disegnati con un pennello fatto da un pelo finissimo di cammello, C, alati, D, e va avanti così, no? Con una classificazione per noi totalmente spiazzante, abnorme, in cui ci pare che le singole categorie non abbiano nulla di... Cioè, dice A, appartenenti all'imperatore, dice B, appartenenti agli A, no, B, disegnati con un pelo finissimo, quindi metto insieme delle cose, cioè addirittura possiamo anche fare i furbi e dire, oh, questi cinesi che coglioni, cioè, manco sanno fare la classificazione, no? Ora, in realtà, se ci pensate bene, ci vuole un presupposto, bisogna avere fatto una scelta prima di dire, ma le classificazioni buone sono quelle che si basano su di un parametro unico. Per esempio, per gli animali, i rapporti di proprietà, oppure la classificazione di Linneo fatta nel 700, oppure la loro biologia interna, o che cazzo ne so, cioè. Va bene, nessuno dice che queste classificazioni non possono entrare, ma chi l'ha detto che siano le uniche possibili? O che siano le uniche buone? O che siano le uniche... E perché io non posso costruire un sistema nel quale la pertinenza sta in una alternanza di categorie tra appartenenti all'imperatore e disegnate con un pennello di un solo pelo di cinghiale? Posso farlo, certo. Posso farlo, e questa cosa non è più arbitraria o più stupida o meno utile di altre, perché io non. Perché? Perché noi, per fare questo, adesso cerchiamo di fare un passo avanti, tutte le volte che noi tentiamo di attribuire al linguaggio, a qualsiasi strumento che noi usiamo, una necessità metodologica, no? Cioè, diciamo, questo è, adesso mi mancia, adesso, giuro, la prossima volta che non lo sento, alla fine del giorno dico, ma perché mi hai privato di questo saluto? Però fallo subito, appena vi apri, lo fai, così io so che il tuo computer mi saluta, capito? Cioè, che è una cosa carina, so. Ma non ho perso il filo, ragazzi, per così poco, perché prima di perdere il filo mi ci vuole quarti d'ora e quarti d'ora di divagazione, quindi. Allora, tutte le volte che io cerco di dare consistenza, cioè di dare una ragione che io suppongo che noi, supponiamo oggettiva, che suppone, cioè, le classificazioni si fanno così. Le classificazioni si fanno sulla biologia, ma che cazzo, ma che siamo, a, cioè siamo bambini, appartenenti all'imperatore, disegnati col pennello, ma che, noi siamo persone serie. Che cosa c'è dietro a questa cosa? Ve ne rendete conto? C'è un presupposto che noi non esplicitiamo perché ci pare banale, perché ci pare stupido, ma che è un presupposto anch'esso arbitrario, che però è talmente connaturato in noi che noi crediamo che vada bene, che sia quello buono, che sia quello che ci dà la classificazione giusta, che quello è lo strumento giusto, ma non è affatto vero. Non è così. Qual è questo presupposto? È che nelle cose, che nel mondo ci sia un senso di per sé, autonomo, che le cose abbiano un senso, che il senso degli animali sia la loro conformazione biologica, la loro strutturazione biologica, e gli studi che hanno fatto da Linneo a Watson e Crick come DNA per descrivermi gli animali, e che se non l'unico, ma il vero modo, cioè che, come dire, che la razionalità inerente al mondo, a quella porzione di mondo di cui sto parlando, per esempio agli animali, sia quella. Ma sareste disposti a morire per questa, morire, mi rendo conto che è un po' eccessivo, ma insomma, anche a fare una discussione, anche a scommettere una birra sulla bontà di questa, sulla verità di questo assunto? Perché deve essere così? In base a quali cose? Certamente ci saranno delle attività per cui è utile questo, nessuno lo mette in dubbio. Se devo andare a fare una classificazione e devo andare a scoprire qual è il rapporto tra base biologica e comportamenti, per esempio, può essere che questa vada bene come classificazione, come criterio di classificazione di fondo. Ma se io usassi solo questo criterio, io non avrei nessuno dei bestiari medievali, non avrei nulla, non avrei nessuna opera fantastica sugli animali, non avrei, e ce n'è a bizzeff, ragazzi, ce n'è a bizzeff, bellissime, divertentissime, che ci fanno sognare, che ci sballano, che ci fanno fuori, però in cui non c'è questo presupposto, in cui non è... non lo so, qualcuno di voi gioca a dei videogiochi, fa delle cose? No, nessuno. Peccato, perché sono delle esperienze che mi dicono, cioè io l'ho fatto per un periodo, poi basta, perché invecchio anch'io, ma insomma. Allora, ci sono, è pieno di questi giochi, ce n'era uno in modo particolare fatto negli anni 80, me lo ricordo adesso, perché adesso non ci sarà più, ma insomma, si chiamava Decima Legio, ed era una roba piena fatta da un disegnatore italiano più o meno vagamente ispirata, ma se la prendete Tolkien, lo conoscete, il Signore degli Anelli lo conoscete, no, okay. Allora, il Signore degli Anelli c'ha un bestiario della Madonna o no? Bellissimi, c'è. Dal Balrog dagli hobbit, insomma, che sono pseudo-umani, insomma, quel diavolo che sia, ai troll, agli orcs, a tutte queste cose. Tutte cose qua. E queste cose qua, secondo voi, sono compatibili con un sistema classificatorio linneiano? Cioè, col cazzo, dai, no? Non bisogna dimenticarselo Linneo per poter godere di questa lussureggiante fantasia di questo vecchio e noioso professore di inglese medievale dell'Inghilterra degli anni 30, che si chiamava John Ronald Reuel Tolkien, e che si inventò questo mondo della Terra di Mezzo. Cioè, insomma, il succo è arbitrarietà del segno, vuol dire arbitrarietà del significante, arbitrarietà del significato, arbitrarietà dell'immagine acustica, arbitrarietà del concetto. Entro certi limiti, arbitrarietà anche del sistema di concetti che noi usiamo per descrivere e leggere il reale, fino a un certo punto, naturalmente. Non è che sono proprio totalmente arbitrari, o proprio fuori però insomma è chiaro che c'è una determinazione, non fosse altro la determinazione ultima, quale sarà? Quale sarà l'elemento che al fondo determina in qualche maniera anche la nostra... C'è, evidentemente c'è qualche cosa, perché se no non saremmo esseri limitati, se no saremmo Dio. Se non fossimo limitati saremmo Dio, se non avessimo qualche... Ma quale può essere? Azzardate un'ipotesi. Quale può essere secondo voi la... Non c'è scritto negli appunti. È una roba che sta nella vostra testa, insomma, se ci sta, se non ci sta, non so. Ma ci sta, siete voi che non sapete trovare. Ci sta nella vostra testa, non c'è dubbio. Qual è la determinante ultima degli esseri umani, dai, come di tutti gli esseri viventi? La riproduzione. C'è sempre a dire qualcosa, eh? Io ho capito, va bene, concordo con te, è un'attività esaltante e anche molto divertente, specialmente se si riesce a scioglierare l'aspetto riproduttivo da quello copulativo, come ovvio, insomma, se no è una bella palla. Sì, ma alfo, ok, che cos'è la riproduzione? È un pezzo di che cosa? È una delle tante funzioni di che? Della biologia, ovviamente, è la nostra biologia, quella sì che ci determina, cazzo, o no? Ci determina, cioè abbiamo due braccia, un polmone, due polmoni, qualcuno, sono quasi tutti, ne hanno due, un fegato, una milza, alcuni globuli bianchi, globuli rossi, eccetera, chi ne ha più, chi ne ha meno, insomma, ovviamente la nostra biologia ci determina, non possiamo fare delle cose che sono vietate dalla nostra biologia, per esempio non possiamo volare, cazzo, siamo così, cioè, gravissima limitazione, però non ci possiamo fare nulla, cioè, non possiamo volare, non abbiamo nessuno strumento che come altre specie animali hanno per volare, poi questi ne hanno in cambio, gli mancano altre cose, però diciamo al di là delle determinazioni e quindi al di là dei limiti che ci pone la nostra biologia, da un sacco di altri punti di vista. Sì, non voglio dire che non ce ne siano, ma insomma io trovo ben pochi limiti. Nelle attività umane ci sono anche la ricchezza delle forme politiche, delle forme di immaginazione. Abbiamo tutti, qua abbiamo sperimentato nel corso della storia, no, quasi tutti i tipi di organizzazione politica, no? Tirannia, monarchia, democrazia, rappresentativa, non rappresentativa, diretta, colpi di clava sulla testa, tutti gli strumenti di rapporti, abbiamo usati quasi tutti quelli possibili e forse ne verranno fuori ancora di non molto possibili. Quindi c'è questa, però una volta che abbiamo, come dire, tutti questi sistemi che in qualche maniera hanno, da questo punto di vista sono simili al linguaggio, no? Mi sa che qui non riesco a fare tutto quello che devo fare altro, va bene. Allora, mutabilità, immutabilità, per certi versi, allora, quindi c'è una mutabilità e una immutabilità dei sistemi di segni, che che sono quelli che da un certo, allora, quindi diciamo c'è una mutabilità che è quella del mutamento, come dire, storico. E poi c'è quella che Saussure chiama immutabilità, che in realtà non è propriamente una immutabilità, ma è l'impossibilità da parte, quello che abbiamo preso prima, l'impossibilità da parte del singolo di mutare lui con un atto individuale la lingua. La lingua gli arriva già data e nessun essere umano singolo la può. Basta. Quindi c'è, come dire, c'è un rapporto tra la lingua, la lang, nel senso, usiamo sempre lingua, adesso lui usa perché De Mauro traduce lang con lingua mentre non traduce parole, giustamente perché è intraducibile. Allora io però trovo che è più facile a questo punto usare i due termini francesi, siamo a posto, insomma, usiamo anche noi lang per lingua e parole per parola. Allora, passiamo invece a quello che volevo cominciare a leggervi, e cioè la questione quella che lui nel titolo del capitolo chiama linguistica statica, linguistica evolutiva, e poi proprio fa prima dice, questa è la sincronia e la diacronia, cosa che vi ho già accennato. Però non guardo l'orologio, proprio. Ce la faccio, ce la faccio. Non so se voi disperate, ce la faccio, ma invece oggi vi stupirò. E ce la farò. Ancora finiamo oggi alle 4:30. 4:30. Allora, questo è un pezzo di cui vi darò in parte le pagine, quando, non so, spero di farvelo già la prossima settimana, perché il capitolo è più lungo. Il capitolo si chiama la linguistica statica e la linguistica evolutiva. Allora, il percorso fino adesso è stato grosso modo questo. In francese langage, in inglese language. In tedesco è un casino, in tedesco, perché il tedesco Sprache serve per Lang, non per... Devo andare a vedere cosa dice lui. Devo andare a vedere cosa dice De Mauro. Se ho tenuto bene il segno, eh. Ma che, figuriamoci. Non è questo il segno. Ecco, l'ho trovato. Cos'è che ci mancava il tedesco? Uh-huh. Bastardo, lo mette dopo il tedesco. Tedesco. Sì, allora. Ve l'ho detto l'altra volta. Allora, Sprache oscilla tra i valori di Lang e di Langage. Che può dire sia lingua che linguaggio in italiano, grosso modo. Mentre Rede è... Può essere a volte langage, a volte parole in francese e a volte discours o discorso in italiano. Per cui alcuni per esempio usano in tedesco Sprache nel senso di Lang, quindi era come vi dicevo io, non si può usare per linguaggio. Mentre il langage è il menschliche Rede, menschliche vuol dire umano, discorso umano, Rede, discorso Rede. Il discorso umano. E parole, però, a questo punto è das sprechen. Sprechen è un verbo che vuol dire parlare, sostantivato, das sprechen, il parlare. Vabbè, insomma, il tedesco è la lingua per cui è più complicato tradurre la terminologia di, diciamo, Saussure. A noi ci va tutto sommato abbastanza bene, perché con linguaggio, la so fare le lingue, insomma, adesso. Facciamo tutto in italiano così e poi in... Allora, diciamo, le due articolazioni non sono due parti, sono due sistemi, due modi di vedere la parola, diciamo, in termini generali linguaggio. Allora, fino adesso, fino a questa parte del libro, Saussure ha stabilito bene la differenza tra Lang e parola. Lang è il sistema, la Lang è l'unica cosa di cui ci può essere scienza, diciamo, linguistica, ma la parola è l'atto concreto, l'atto di linguaggio nella sua concretezza, quindi è la Lang filtrata attraverso la sensibilità di ciascuno di noi nella produzione linguistica di ciascuno di noi. Adesso, in qualche maniera si potrebbe dire sia la Lang che la parola, però Ovviamente è più importante dal punto di vista della langue, della lingua, in, diciamo, generale. Abbiamo due diverse caratteristiche della langue. C'è una langue statica, c'è la langue come si presenta in un momento particolare della storia, l'italiano come è parlato nel 2012, negli anni probabilmente tra il 2000 e, cioè il 2000 e il 2020, chi lo sa, insomma, non lo so, adesso vediamo, non c'è mai un momento, però può essere dubbioso, cioè ci può essere una può essere un dubbio sull'arco di tempo da, diciamo, considerare, ma è comunque una costruzione di tipo statico, cioè quel periodo, quell'intervallo di tempo durante il quale il sistema della langue non cambia. Sicuramente la langue italiana di oggi non è esattamente la langue italiana del 1980. Nel 1980 non si diceva decade, per dire decennio, adesso vi rompo con gli occhi con questa mia... però così. Quindi è ovvio che per quanto poco, per infinitesimo, ma un piccolo cambiamento siamo sicuri che c'è stato. C'è un modo di dire che è venuto fuori, diciamo, all'incirca intorno al 1990 o pochi anni dopo. Forse anche nel 2000, non lo so, non sono sicuro, sicurissimo. Comunque diciamo, quella è... Allora, io posso studiare la langue da un punto di vista statico, cioè dal punto di vista di com'è il sistema in un certo momento, oppure lo posso studiare dal punto di vista evolutivo. Posso andare a studiare l'italiano, andare a vedere come si è parlato, adesso parlato vi ho detto che è una parola grossa per l'italiano, perché già non è mai stato parlato prima degli anni 50, del 900, insomma, in tutto il paese. Quindi... parlato in un ambito molto ristretto, perché qualcuno lo parlava, certo, ma insomma erano illetterati tra loro, insomma, quando si incontravano, non lo so, oppure scrivevano come oggi, insomma. Ma comunque scritta, parlata che sia, comunque so, l'italiano è una lingua, questo non vuol dire che non è una lingua, ovvio che è una lingua, però con delle caratteristiche molto diverse, d'altro più simile al tedesco, più simile al tedesco. Il tedesco ancora oggi ha delle variazioni interne molto più forti, voi sapete che cioè come dire, un bavarese e uno dello stato di Hannover non sono convinti di parlare proprio la stessa lingua. Soprattutto quello di Hannover è convinto che il bavarese parla un tedesco di merda. Il bavarese un pochino anche, ma meno, è più un po' più tollerante, essendo più vicino al mare, un po' più meridionale di quello di Hannover, no, che ha il mare suo, ma un mare che cazzo se lo tengano, il mare del nord, che va benissimo. No, tengo loro perché non gli va. No, questo per dire, insomma, che mentre il tedesco era, come dire, il tedesco ha avuto un'unità linguistica per certi versi ben prima di noi, ben prima dell'Italia, però con delle variazioni anche notevoli a volte al loro interno, cioè, non, per non parlare poi del tedesco degli austriaci, il tedesco degli svizzeri, insomma, che sono robe, sono razzi acidi, insomma. Pare che Wittgenstein, che è nato in Austria, parlasse meglio l'inglese, cioè madrelingua chiaramente tedesca, chiaramente austriaca, ma parlasse meglio l'inglese che non tedesco, avesse meno accento. Allora, un parlante tedesco era in grado, era in grado di cogliere l'accento viennese di, per dire, Wittgenstein, per dire, che sto studiando in questo periodo. Che vi va bene, che vi risparmio, perché se avesse finito di studiare Wittgenstein era tutto un altro corso quest'anno. No, siete fortunati, che vi faccio tutte robe più semplici. Sto rischiando, di perderlo. Ma lo riacchiappiamo. Allora, per esempio, possiamo andare a studiare lo sviluppo, i cambiamenti del sistema linguistico tedesco, area, cioè con tutte le sue variazioni, eccetera, diciamo tra il XIV secolo, dico XIV perché più o meno è il periodo in cui nasce il Nida Noi Deutsch, mi ricordo più come cazzo dico, loro sanno 10.000 distinzioni, ragazzi, il tedesco è lo scacco più grosso della mia vita, sono arrivato a 5 anni, non ne so nulla, mi sono dimenticato tutto, non so né parlarlo né leggerlo in maniera decente, cioè 104 anni. Allora, comunque c'è l'antico alto tedesco, medio alto tedesco, nuovo alto tedesco. Questo è l'antico, antico, medio, alto, qui il basso e poi c'è il nuovo, non mi ricordo più com'è. Quindi c'hanno dei nomi insomma, particolari. Fatto sta che l'inglese del 400, il tedesco del 400 secolo è un tedesco illeggibile per i tedeschi di oggi. Non parliamo di quello del 10 secolo dei Nibelunghi, che proprio è una specie di norvegese, sì, sono più simile a quelle lingue lì che non hanno. Allora, posso fare uno studio evolutivo. Allora, ovviamente i termini che poi sono, che usa anche in parte Saussure, che però si sono imposti soprattutto dopo Saussure, ovviamente sono i termini sincronia e diacronia. Quindi c'è una linguistica. C'è uno studio della Lang sincronico, lo studio del sistema linguistico in un dato periodo, e uno studio della Lang diacronico, dello sviluppo storico di quel certo percorso. Siccome, ripeto, i pigri intellettualmente, più alcuni non pigri ma fuorviati, hanno voluto attribuire al povero Saussure la paternità dello strutturalismo, cioè hanno ovviamente voluto, gli hanno affibbiato anche tutte quelle che loro, i pigri e quelli deviati, pensavano fossero i limiti dello strutturalismo, tra cui c'è quello di essere antistorico e non occuparsi della storia. Quindi tutte queste persone qui, tutte queste categorie di persone hanno detto bene. Dice, infatti, di Saussure non ha mai studiato la diacronia, ha detto che c'è sincronia e diacronia, però in realtà lui ha sentato soltanto sincronia. Questa è una bugia, non è vero, non è vero, non è vero. Cioè, il capitolo quinto di Tutte le si chiama Linguistica diacronica, ed è uno studio, certo non delle singole lingue, perché dei principi generali con i quali si può fare una linguistica diacronica, quindi non c'entra nulla. È vero, però, questo sì, che da un certo punto di vista Saussure afferma che è impossibile fare una linguistica diacronica senza aver fatto prima una linguistica sincronica. Cioè c'è una sorta di priorità logica. Cioè se io non so che cos'è un sistema linguistico, non posso poi farne la storia. E per sapere cos'è un sistema linguistico devo pormi in una prima fase da un punto di vista sincronico, non posso fare altro che così, devo studiarne la struttura, devo diciamo studiare come è fatto. Sia del tempo contemporaneo o dell'inizio? Ovviamente il tempo contemporaneo, cioè il tempo, sì, si intende che è più semplice il tempo contemporaneo perché hai più documenti, perché hai più cose, perché hai più. Certo, puoi anche fare la sincronica, ma sincronica che senso ha andare a fare. Allora, all'iniziale era il punto più. Allora, intanto però intanto ti interessa poco perché vabbè, vuoi fare una costruzione, devi fare 10 libri diversi, decidi 10 punti della storia. Allora, quando c'è un tedesco che ha scritto la migliore grammatica storica della lingua italiana che ci sia, non è strano che sia stato un tedesco, perché molto probabilmente i migliori libri sul buddismo li scrivono dei non buddisti, i migliori libri sul marxismo dei non marxisti e i migliori libri sul liberalismo dei non liberali. Infatti vorrei scrivere un libro sul liberalismo, così almeno demolisco tutto quello che c'è da demolire. Però sono pigro, quindi non lo farò mai. Questo non vuol dire che io sia marxista, cioè, ho smesso di esserlo anche quello da un bel po' di anni. Allora, questo Rawls ha scritto un libro in tre volumi grossi così, cazzo. In questa grammatica storica della lingua italiana, grammatica storica, cioè è uno studio diacronico in cui mette a fuoco, cioè c'è una, come dire, c'è una uno scheletro sincronico sin troppo a volte, cioè nel senso che prende troppo per buone certe categorie tradizionali dell'analisi grammaticale, eccetera, comunque nome, sostantivo, verbo, eccetera, eccetera, e poi va a fare, poi struttura della frase, eccetera, e va a fare uno studio di come è cambiato l'italiano dal XII secolo sino ad oggi, sino al Novecento, un libro scritto negli anni 60 del Novecento. Cioè non fa una, non è che prende una sincronia l'italiano del, però ci sono studi anche sull'italiano del Cinquecento, certo. Dice qual era il lessico prevalente, Pietro Bembo come Baldassar Castiglione, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso più sul finire, come si chiamava Pulci? Luigi Pulci, vabbè, insomma, tutti questi qua, che cazzo di che parole usavano, che la cosa ti può, cioè, e porta a degli strani risultati. Io quando facevo il liceo, una cosa che mi ha sempre, cioè, non riuscivo a capire perché, cioè, leggevo Dante, allora mi ha cominciato a leggere Dante in terzo, va bene, cioè ho fatto il liceo scientifico purtroppo, quindi in quarta facciamo Machiavelli, cioè io abituato leggo Dante, insomma, più o meno si capisce, un po' complicato, ma cioè, è un italiano molto vicino al nostro, vicinissimo, non è tanto. Cazzo, leggi Machiavelli, il principe di Machiavelli, il lo scrive el, l'articolo, il lo scrive el, cioè è pieno di toscanismi, di robe, sembra un italiano, a me, studente, mi sembrava un italiano più arcaico di quello di Dante, no? Più antico, più, ma come cazzo, esce due secoli dopo Dante e scrive così. In realtà, perché, come si chiama? Machiavelli scrive in col fiorentino, e però devo dire, questa cosa piano piano ha lavorato dentro di me, senza che io ne fossi cosciente, ovviamente, perché ero un ragazzo assolutamente... cioè con ben poca autocoscienza, che venne molti anni dopo. Però per i fatti suoi lavorò per destrutturare, decostruire, se non proprio distruggere in me, ogni ipotesi gradualista, cioè che le robe miglioravano da una cosa all'altra, che capivo, che dico no, ma effettivamente ognuno, cioè ci sono nelle varie epoche, hai varie possibilità, puoi anche fare quello che a te con il senno di poi ti sembra un passo indietro, in realtà non è un passo indietro, è semplicemente adotti un modello diverso, fai una cosa diversa. Comunque, fatto sta che uno studio sincronico della lingua è uno studio sincronico della lingua come si parla nel momento in cui l'autore la studia. Anche perché, ripeto, volendo, cioè, per uno studio sincronico del passato tu hai soltanto delle fonti scritte, mentre nello studio sincronico del presente hai fonti scritte e fonti parlate, poi puoi fare un'indagine, puoi andare in giro, sentire col tuo registratorino e sentire come parla la gente davvero nel metrò, nei bar, quando si pestano il piede sul metrò, che qua sono robe che sono parole che è bene non far circolare troppo liberamente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si fa così, insomma, questo è lo studio sincronico di fatto. Allora, l'inizio, il modo in cui lui affronta questo problema può essere interessante, quindi vi leggo qualche frase. Ben pochi linguisti sospettano che l'intervento del fattore tempo è tale da creare alla linguistica difficoltà particolari e che esso pone la loro scienza dinanzi a due vie del tutto divergenti. Le altre scienze, per la maggior parte, ignorano questa dualità radicale. Il tempo non vi produce effetti particolari. L'astronomia ha constatato che gli astri subiscono notevoli cambiamenti, ma non perciò si è scissa in due discipline. L'astronomia. Cioè, gli astri cambiano, cioè, a parte le comete che vanno e vengono, eccetera, ma insomma, chi fu il primo che si accorse che gli astri cambiano? Bravo, Galileo Galilei. E se no tutti gli altri erano convinti che gli astri fossero delle robe immutabili, no? Fatte addirittura di una sostanza incorruttibile, eterna, tutto palle, così. Alla fine Galileo dice, ma che cazzo dice? Venere c'ha le fasi come la Luna. Che dite? Allora, l'astronomia ha constatato che gli astri subiscono notevoli cambiamenti, ma non si è scissa però in due discipline. La geologia ragiona quasi costantemente su successioni, ma quando perviene ad occuparsi degli strati fissi della Terra non ne fa un oggetto di studio radicalmente distinto. Vi è una scienza descrittiva del diritto e una storia del diritto, ma nessuno oppone l'una all'altra, infatti si studiano entrambe nelle facoltà di diritto e spesso sono gli stessi insegnanti che la insegnano. La storia politica degli stati si muove interamente nel tempo, tuttavia se uno storico fa il quadro di un'epoca non si ha l'impressione di uscire dalla storia. Storia d'Italia nel 500. Descrivo il sistema politico, come erano gli stati italiani, i rapporti, l'Italia e il resto d'Europa, eccetera, eccetera, non è che dice no, questa qui non è storia. Eppure è una storia, virgolette, chiamiamola sincronica, perché studia un po' in un momento particolare. Inversamente, la scienza delle istituzioni politiche è essenzialmente descrittiva, ma può tranquillamente trattare all'occorrenza una questione storica senza che la sua unità ne sia turbata. Quindi lui dice, guardate che nella gran parte delle scienze c'è questa differenza tra sincronia e diacronia, però non crea delle conseguenze così rilevanti per lo studio, per gli strumenti con i quali si studiano, no? Questi campi di indagine. Al contrario, la dualità di cui parliamo si impone già imperiosamente alle scienze economiche. Dice, occhio, già nell'economia le cose vanno diverse. Qui, diversamente da ciò che accadeva nei casi precedenti, l'economia politica e la storia economica costituiscono due discipline nettamente separate in seno a una stessa scienza. Procedendo in tal modo si obbedisce, senza rendersene ben conto, a una necessità intrinseca. Ed è una necessità affatto simile a quella che ci obbliga a scindere la linguistica in due parti, aventi ciascuna il suo principio. Di fatto è che, e qui arriviamo al punto, di fatto è che qui, come in economia politica, si è di fronte alla nozione di valore. Valore. C'è qualcosa che vale, che ha una equivalenza con qualche altra cosa. Nella storia non c'è questa roba. Dov'è il valore della storia? L'impero di Carlo V vale più di quello di Francesco I, secondo non ricordo, di Francia? Il socialismo vale più del capitalismo? Dal punto di vista storico, se mi metto a vista delle teorie politiche posso dire di sì, ma è un altro discorso, non è la storia, non è la... Nella economia, come nella linguistica, come nella lingua, invece, il quattrino vale, i soldi valgono. Cosa valgono? Valgono perché sono equivalenti a qualche cosa. Con 12 euro io acquisto a prezzo scontato il libro che Carania mi ha portato l'altra volta. C'è un'equivalenza, questo è un valore, no? Perché 12 euro valgono? Perché sono equivalenti al libro di Carania, a 4 cioccolate con panna, pasticcini, non so che cazzo, qualche altra roba. Cioè, a tutta una pluralità di oggetti ci sono delle equivalenze, no? Anche nel segno linguistico c'è, non nei segni linguistici, infatti nei segni, non nelle costruzioni. Non negli elementi con cui costruisco il segno. Il fonema A non vale nulla. Cosa vale il fonema A? Niente. Il fonema B non vale nulla. Il fonema O non vale nulla. Ma l'insieme di tre fonemi ABO vale il nome di un mio amico, militante del centro sociale Piano Terra di Milano, che si fa chiamare ABO. Voi non lo sapevate, ma adesso sapete che c'è uno che si chiama Abo. Se vi capita, diciamo, c'è la mia, una volta a lezione. C'è un valore, i segni linguistici hanno un valore, equivalgono, sono dei significanti, cioè c'è in loro una relazione tra significante e significato, c'è un valore, valgono, c'è un valore. Quando c'è un valore, lui dice, attenzione, ma questo è l'incanto, perché dice così? Se lo dice, quando c'è un valore, è lì che la sincronia si deve separare radicalmente dalla diacronia. Forse ci possiamo arrivare anche senza andare avanti a leggere, però se poi se invece volete andiamo avanti a leggere, ma forse non è così sbagliato, forse non è così difficile, scusate, scoprire perché la contrazione del valore porta con sé la necessità di separare drasticamente sincronia da diacronia. Allora, il fatto è che qui, come in economia politica, si è di fronte alla nozione di valore. In entrambe le scienze ci si occupa di un sistema di equivalenza tra cose di ordine differenti. Nell'una un lavoro e un salario, nell'economia politica c'è lavoro e salario. Nell'altra c'è un significato e un significante. Questo passaggio è all'origine di tutto un fiorire poi di opere successive, in cui, in qualche maniera, metaforicamente, allora, il libro forse più famoso è stato scritto da Jean Baudrillard, pubblicato nel 1972, e si chiama Pour une critique de l'économie politique du signe, per una critica dell'economia politica del segno. Ma questa cosa stava già in Saussure nel 1916 o nel 1922, quindi figuratevi, questa idea che ci fosse, no? Che quindi fosse possibile. E addirittura poi da questa cosa si costruisce tutta una nozione obiettivamente un po' complicata e forse anche un po' ambigua di, diciamo, economia linguistica in questo senso, perché c'è comunque un parallelo, insomma, tra, cioè allora, lavoro, salario nella economia politica, significante, significato. Non ce lo spiega ancora bene perché, ma noi sospendiamo un attimo, poi ci arriviamo anche noi. È certo che tutte le scienze avrebbero interesse a rilevare più scrupolosamente gli assi su cui sono situate le cose di cui si occupano. Bisognerebbe dunque distinguere secondo la figura seguente. Adesso facciamo anche noi la figurina che passa al giro e così capiamo meglio, anche se in realtà spiega ben poco, insomma. Comunque vi ripeto che tutto questo poi ve lo do fotocopiato. Allora, c'è un asse della simultaneità, che lui chiama AB, l'asse della simultaneità. Su questo asse stanno più o meno descritti tutti i rapporti tra gli elementi del sistema che coesistono, senza nessun intervento del tempo, non si parla del tempo qua. Poi però invece c'è un asse allora questo è l'asse delle simultaneità, questa è la sincronia, qui invece c'è un asse delle successioni. L'asse CD. L'asse delle successioni ovviamente ha una direzione, perché il tempo ha una direzione. Non possiamo farci nulla. Non ci farebbe piacere che fosse reversibile il tempo, no? A voi no, a me sì. Basta. Sull'asse delle successioni è possibile considerare solo una cosa alla volta, dove però sono situate tutte le cose del primo asse con i loro cambiamenti. Ovviamente la figura è molto carente, perché dove sta la carenza di questa figura? Cosa ci manca a questa figura? Cos'è che non mi dice? Cos'è che mi limita? Cos'è che mi limita arbitrariamente, diciamo? La linea orizzontale, basta una secondo voi o AB? Basta una o ce ne vorrebbe di più? su AB. Se il sistema è fatto così, vado lì, ogni punto è un concetto, un elemento, eccetera, poi faccio tutte le variazioni. Cioè. No, diciamo la linea verticale. Sì. La linea verticale, ci vorrebbe una linea verticale per ogni elemento del sistema, perché c'è una conseguenza della diacronia su ogni elemento strutturale, chiamiamolo così, quindi adesso non è che gli si può chiedere di fare per forza tutto. Per le scienze operanti su valori, questa distinzione diventa una necessità pratica e in certi casi una necessità assoluta. In questo dominio non c'è specialista che possa organizzare le sue ricerche in modo rigoroso senza tenere conto dei due assi, senza distinguere il sistema dei valori considerati in sé dagli stessi valori considerati in funzione del tempo. Non ce lo vuole dire bene, dobbiamo strappargliela, la vera ragione per la quale se entra la considerazione di valore la differenza tra sincronia e diacronia deve essere accentuata, non è possibile tenerla troppo collegata. Ma è la ragione qual è? In realtà lui perché non la dice? Perché crede di averla già detta. È qualcosa che ha già detto, è qualcosa che Saussure ha già enunciato. Quindi tutti avranno capito bene. La questione del valore, a che cosa è connessa secondo voi? Cioè quando c'è un'equivalenza tra due sistemi di... Allora, vi suggerisco questo. Si può spingere l'analogia tra sistema, diciamo, degli equivalenti economici e sistema degli equivalenti linguistici, si può spingere un po' più avanti di come l'abbiamo detto sinora? Noi abbiamo visto che il sistema degli equivalenti linguistici è retto da una legge generale che è quella della arbitrarietà del segno, sì. Ok? Dai, ormai ve l'ho già detto. Secondo voi, nell'economia, c'è un'analoga arbitrarietà del segno valore o no? C'è un'arbitrarietà del mercato? Non so. Mercato, non farla con complicata, anche senza mercato. È analoga, non mi sembra. Non ti sembra? Cioè c'è una ragione particolare per cui quel libro lì deve costare 12 euro, cioè, lo so che c'è, certo. Singolarmente c'è. Ma perché deve costare 12 euro e non 548 paprocchi? Che è legato dall'arbitrarietà del mercato, da tutta una serie. Ma lascia perdere il mercato, che è una roba che non c'è mai stata in vita sua, è un'invenzione dei capitalisti, cazzo. Il mercato, gli hanno imbottito la testa di puttanate e adesso guarda qua il risultato. Il mercato non esiste. Esiste una quantità di mascalzoni che cercano di fare quattrini. Mercato. Vabbè, c'è comunque. C'è un'arbitrarietà, certo che l'arbitrarietà è totalmente arbitrario, il valore economico è totalmente arbitrario. Esattamente come il segno linguistico. Come non è vero? Come non è vero? Guarda, sei preda dell'ideologia più pieca. No, ti vogliono far credere questo. La carta non è un bene finito, cioè infinito, è un bene finito. Il petrolio non è un bene infinito, è un bene finito. Allora? Non è proprio tutto arbitrario. Io non ho detto che l'economia è arbitraria, ho detto il sistema di equivalenza. Oh cazzo, cerchiamo di capire. Quando Saussure dice guarda che il sistema linguistico è arbitrario, non è che dice arbitrario uno fa quello che gli pare. Abbiamo già detto prima che non va bene così. Allora non è arbitrario in questo senso. E così non è che dice, vabbè ragazzi, per favore, adesso mi date 520 euro per ogni libro che vi do. E giustamente voi mi sommergete di sputi e anche di corpi contundenti più pesanti. Capisco benissimo, cioè. Allora, non in questo senso, ma la scelta dell'unità di misura, allora, purtroppo gli economisti di oggi non leggono, o se li leggono fanno apposta a non... è a dimenticarsi, non leggono i libri di antropologia. L'idea che il denaro, che la moneta sia ancorato a una qualche roba, tipo appunto scarsità dei beni, puttanate varie di questo tipo, eccetera. Domanda offerta. Non sono robe naturali, tesoro, domanda offerta. Leggiti. Leggi. C'è la questione naturale. Cosa? Allora, se non sono naturali saranno arbitrari o no? Se tutto ciò che è storico è arbitrario, perché è una roba che è il risultato di una scelta, di una libera scelta della mente umana. Allora, per esempio, bisogni che sono biologici. Mi fai raccontare, i bisogni biologici sono fare la cacca, mangiare, scopare, punto. Poi ovviamente respirare, no? Basta, finiti i bisogni biologici. In tutti questi l'economia non c'entra nulla, eh? Tu scopi, mangi, cachi e dormi senza fare corso ai soldi, giusto o no? Adesso dimmi di sì. No, perché sei abituati tutti, che la casa, il letto, la roba, eccetera, ma cioè, voglio dire, gli esseri umani per la gran parte della loro storia hanno fatto tutte quelle cose lì senza nessuna. Quindi vuol dire che l'economia è arrivata a un certo punto, ma anche quando è arrivata l'economia, mi fai raccontare questa cosa così almeno così. Per esempio, vai a prendere il modo in cui gli abitanti della Polinesia, quando sono stati intercettati dagli imperialisti bianchi, posso usare il termine, non vi dà fastidio, gli imperialisti bianchi nel XVIII secolo, e hanno scoperto che lì c'era un sistema di moneta, c'era una moneta, allora si scambiava le cose con la moneta. Questa moneta cos'era? I cosiddetti cauri. Cos'erano i cauri? Erano conchiglie, cioè conchiglie ovviamente, conchiglie, quindi gusci di, come si chiamano gli abitanti delle conchiglie accidenti? Molluschi, grazie. Era una parola mollusca. Conchiglie di molluschi morti in quantità inenarrabili e industriali sulle spiagge. C'erano cumuli, migliaia, cumuli così alti, cazzo, di conchiglie, di cauri. Arriva l'indigeno, e dice, oggi mi pido un po' di soldi. È così, ragazzi, non vedete, è così. Adesso andatevi a dire al professor Monti, che quella lì non è un'economia. Cioè, ovviamente l'economia non possiamo fare così noi, non voglio dire che... Però non diciamo stupidaggini che l'economia, tutte le economie del mondo sono tutte limitate. Dove lì non c'è... Il cauro è un bene niente affatto scarso, è un bene abbondantissimo. Cioè milioni, migliaia, centinaia di migliaia di molluschi nascono, vivono, muoiono, questi fa la cosa e c'è un sistema così. Per cui... E funziona lo stesso. Certo, funziona, non è una società industriale, certo. Le società industriali è molto difficile, se non impossibile, farle funzionare in modo, come dire, diverso, ma non è che c'è stata solo la società industriale nella storia del mondo. La società industriale è uno sputino nella storia di Homo sapiens, Sono 300 anni, sì o no, 400, sì o no, su 250.000, su 1.400.000, su 4 milioni e mezzo di anni di specie ominidi che calcano con stazione eretta questo pianeta, cioè Dio buono. Adesso 300 anni sono diventati l'assoluto? Non si può fare a meno di quello? Forse, non lo so, ma insomma, facciamo un po' di, mettiamoci un po' di immaginazione, un po' di... Forse, magari una qualche alternativa si potrebbe trovare, C'è un signore che parla di decrescita. Come si permette di parlare di decrescita qua, se non c'è lo sviluppo? Moriamo tutti, Affogati dallo sviluppo, cazzo, piccati allo sviluppo. Va bene. È arbitrario, la moneta è arbitraria, Ci sono i cauri, ci sono i talleri, ci sono i fiorini, ci sono le cose. Ma vai il film di cosa? Vai il film di come si chiama lì, quello che è morto, povero? L'altro, l'amico di Benigni. Benigni e Troisi. Quando vanno a fare così? Un fiore di Benigni, dico, sapevo che questa funziona meglio del cauro, lo so, perché il cauro dice, no, i cauri non ti fidi, pensi che me la sia inventata io, che i polinesiani, no, in realtà c'era qualcosa dietro, per cui c'era un bianco che gli vendeva sti cauri a pacchetti di mille, dice, guarda, mi dai poco. No, ti giuro che non è così, leggi. Mi credi? attenta. No, vabbè. Io devo insegnare contemporaneamente a essere diffidenti anche nei miei confronti, ma soprattutto ad essere diffidenti nei confronti di tutti gli altri che hanno parlato prima di me, perché sono, hanno fatto molte. Io posso fare pochi danni, io ho poco per 6 mesi, quindi in 6 mesi che danno, in 75 ore posso fare pochi danni. Ma quelli con cui avete parlato sinora ve ne hanno fatti molti di più di danni, questo riconoscete, perché la signora TV ha fatto dei danni su di voi. Anche eravate piccolini, non potevate saperlo, certo. No, capisco, mi rendo conto, non ve ne faccio una colpa a volte, no? Però sono due. Va bene, allora insomma c'è un'arbitrarietà del segno linguistico come c'è un'arbitrarietà del segno. È l'arbitrarietà del segno che determina la necessità di studiare, di dover studiare in modo così differente sincronia e cioè la cronia. Perché? Perché se il segno non fosse arbitrario, se il segno fosse in qualche maniera necessitato, ci sarebbe una logica nel suo sviluppo, giusto? E quindi anche la sincronia, come dire, la diacronia opererebbe tenendo conto della sincronia, inversamente la sincronia tenendo conto della, come dire, diacronia, cioè perché non sarebbe arbitrario, è l'arbitrarietà che fa sì che l'asse diacronico, il modo in cui quel sistema evolve, non ha alcuna relazione con delle leggi strutturali di quel sistema, no? Interviene su valori fonetici, su valori di suono, su valori di sintassi, su valori di vocaboli, su cose, in maniera imprevedibile, imprevedibile, perché non c'è un legame, non c'è nessuna necessità tra il senso. Io lo so, mi piace per questo, io capisco sempre i punti deboli dal tipo di sorriso che ha, che ne fai due o tre diversi, quindi. Allora, io lo so che questa cosa non vi ha convinto fino in fondo, cioè, fate bene, perché giustamente dovete essere diffidenti. L'arbitrarietà del segno è la cosa più complicata e più difficile da capire, sia in Saussure che in qualsiasi altra. E perché? Perché noi siamo abituati, non è neanche una cosa così sbagliata, cioè non è neanche che è per una ragione ignobile, è per una ragione nobile che noi siamo poco, perché... Perché il linguaggio, questo maledetto sistema che noi abbiamo, è un sistema che ci convince che le cose hanno un senso. A cosa serve il linguaggio? È a comunicarlo. Serve a dare senso al mondo, serve a costruire il mondo. Il senso è totalmente illusorio, totalmente, non esiste. È una costruzione sociale, è quindi arbitraria. Perché tutto ciò che è storico, sociale, eccetera, che ne dicano i liberali, i marxisti, e tutti quelli che invece vogliono farci vogliono incanalarci dentro un determinismo, no? Noi siamo, certo che siamo determinati, ripeto, dalla biologia, basta. Neanche la società, poi certo una volta che c'è la società è ovvio che ci influenza, no? Ma la determinazione storicamente, non c'è nessuna filosofia della storia, Hegel non sarà mai abbastanza esecrato nella storia della specie umana, perché è quello che più pervicacemente, purtroppo anche più intelligentemente, più potentemente di altri, ha propagandato questa bubola che la storia... Ovviamente i primi sono gli ebrei, senza offesa, senza fare razzismo, ma è stata la cultura ebraica che ha introdotto questa cazzo di freccia del tempo che dice sì, bisogna materializzare il regno di Dio in terra. Ehi, bambini, sei scemo, che vuoi da me? Il regno di Dio in terra. Così una bella casta di sacerdoti decide quello che io devo fare e quello che non devo fare, e siamo a posto. No, uno dice no, può essere anche più nobile di così, però poi purtroppo le questioni sono quelle che sono. Ecco, e quindi è comprensibile che noi siamo convinti che c'è una necessità, perché la necessità da che cosa è data, secondo noi? Dal fine del linguaggio, cioè dal fine della costruzione del mondo. C'è una finalità, pensiamo noi, costruire un mondo migliore, una cosa migliore, eccetera, tutte queste cose qua, tutte giuste, belle, non, nessuno dice di no. Purtroppo non sono vere. Costruire un mondo migliore vuol dire semplicemente evitare qui e ora che qualcuno mi mangi la pasta asciutta sulla testa, o con, inversamente mi pisci sulla testa, questo sì, certo, questo cerchiamo di evitarlo, anzi è nel nostro diritto, ma questo non perché così poi ci sarà una roba che la storia costruisce una società giusta, la società giusta non, probabilmente non potranno mai, diciamo, esistere. Con questo è importantissimo per me lottare per una società giusta oggi, ma non perché poi ci sarà davvero, perché intanto lottando oggi correggo se ce la faccio, se vinco, se sono abbastanza forte evidentemente, correggo le ingiustizie di oggi. E questo, questo vale già, riuscire a fare questo, già cacciare Monti, già va bene. Dubito che votando Bersani cacceremo Monti, ma insomma sono fatti di chi ha votato Bersani. Di chi è andato alle primarie del PD, qualcuno è andato alle primarie del PD di qua, manco sapevo, questo lo sapevo già perché siete fuori target di età, non so, l'età media era altissima, neanche io sono andato, non fatevi venire strane idee, che io vado alle primarie del PD. Allora, è l'arbitrarietà del segno, è la che genera questa relativa autonomia, è chiaro? Della sincronia sulla diacronia. Perché non c'è nessuna legge inerente né alla struttura sincronica né allo sviluppo diacronico. E non essendoci questa cosa è ovvio che li devo studiare in maniera diversa, avranno due logiche differenti. Soprattutto al linguista questa distinzione si impone imperiosamente, perché la lingua è un sistema di puri valori. La lingua è un sistema di puri valori, non ad altro determinato che dallo stato momentaneo dei suoi termini. Adesso qui lui dice una certa differenza, adesso io ho fatto un po' il furbo prima, perché vi ho detto quello che c'è di comune tra l'economia e la linguistica, adesso so solo ti spiega cosa c'è di differente anche, perché ha sentito che tu ti lamentavi, adesso le dico, diciamo che c'è quella lieva lì, quella bionda lì, la lieva bionda di Caronia che è maltrattata sempre più da Caronia che da Pierre, dice adesso diamo un po' di ragione anche a lei. Finché un valore per uno dei suoi aspetti è radicato nelle cose e nei loro rapporti naturali, come è il caso nella scienza economica, per esempio un terreno vale in proporzione a ciò che produce, giusto, questo è vero, cioè è ovvio che c'è una, nell'economia c'è un fondamento un po' maggiore, che, come è ovvio che nella, come dire, linguistica, però poi da un certo punto in poi si salta, cioè una volta dato per assodato questo retroterra, chiamiamo naturalistico, dell'economia, qui correggo un po', mi permetto di correggere il sospiro, in realtà poi anche però l'economia poi ha una grossa parte di arbitrarietà, anche il valore economico è totalmente arbitrario. Comunque, finché un valore per uno dei suoi aspetti è radicato nelle cose, nei loro rapporti naturali, come il caso della scienza economica, per esempio un terreno vale in proporzione a ciò che produce, è possibile fino a un certo punto seguire questo valore nel tempo, fino a un certo punto, pur rammentandosi che in ogni momento esso dipende da un sistema di valori contemporanei. Il suo legame con le cose gli conferisce, malgrado tutto, una base naturale e perciò le valutazioni che vi si collegano non sono mai completamente arbitrarie, la loro variabilità è limitata. Niente, lui proprio sospira. Da ragione a Michela, non c'è dubbio, è dalla parte di Michela. La loro realtà è limitata. Ma noi abbiamo appena visto che in linguistica i dati naturali non hanno alcun posto. La linguistica, proprio i dati naturali non ci sono, non c'è nessuna naturalezza del linguaggio. Nonostante ciò che noi pensiamo, perché avendolo imparato quando avevamo meno di un anno, è ovvio che il nostro linguaggio per noi è naturale, tutti i nostri linguaggi, no? Tranne quelli che impariamo dopo sono meno naturali. Però aggiungiamo che quanto più un sistema di valori è complesso, rigorosamente organizzato, tanto più è necessario, a causa della stessa complessità, studiarlo successivamente su due assi. Ora, nessun sistema possiede questo carattere in misura pari alla lingua, in nessuno si constata una simile precisione dei valori in gioco, un numero così grande, una tale diversità dei termini, in una così stretta dipendenza reciproca. La molteplicità dei segni, già invocata per spiegare la continuità della lingua, la lingua è continua perché ha un casino di segni, quindi non è che cambiandone uno, cioè la continuità è quasi incancellabile. Questa molteplicità ci impedisce di, nel modo più completo, di studiare simultaneamente i rapporti nel tempo e i rapporti nel sistema. Vedete che usa il termine sistema, non usa il termine struttura. Ecco perché noi distinguiamo due linguistiche. Come le chiameremo? I termini che ci si offrono non sono tutti ugualmente adatti a dare rilievo a questa distinzione. Ad esempio, storia e linguistica storica non sono utilizzabili perché richiamano idee troppo vaghe e soprattutto perché danno l'idea che ci siano sempre delle cause. Nella storia ci sono le cause, no? Cioè, qual è la causa della scoperta dell'America? Qual è la causa dell'avvento della società industriale? La scoperta dell'America, la scoperta della stampa, sono le cause sempre. Invece, quindi se qui cause non ce n'è, nel senso che non c'è una motivazione, e quindi linguistica storica è meglio di no, dice, non usiamolo. Come la storia politica comprende tanto la descrizione di epoche quanto la narrazione degli avvenimenti, si potrebbe immaginare che descrivendo degli stati della lingua successivi, si studi la lingua secondo l'asse del tempo. Per questo bisognerebbe considerare separatamente i fenomeni che fanno passare la lingua da uno stato all'altro. I termini di evoluzione e linguistica evolutiva sono più precisi e noi li impieghiamo spesso. Per opposizione si può parlare della scienza degli stati di lingua, cioè uno stato di lingua, e quindi linguistica statica. Ma per dare meglio rilievo a questa opposizione, a questo incrociarsi di due ordini di fenomeni relativi al medesimo oggetto, preferiamo parlare di linguistica sincronica e di linguistica diacronica. E così tagliamo la testa al topo, come si dice, e siamo a posto. È sincronico tutto ciò che si riferisce all'aspetto statico della nostra scienza, è diacronico tutto ciò che ha rapporti con le evoluzioni. Similmente sincronia e diacronia designeranno rispettivamente uno stato di lingua, una tranche de vie, una sezione, come la vogliamo chiamare, una sezione della torta, non una fetta longitudinale, una fetta orizzontale della torta, e invece una fase di evoluzione. Va bene, poi saltiamo la dualità interna alla storia della linguistica, saltiamo la dualità interna, allora di qui è un po' complicato. Allora, paragrafo 5. Le due linguistiche opposte nei loro metodi e nei loro principi. L'opposizione tra la sincronia e la diacronia risalta in tutti i punti. Per esempio, per cominciare con il fatto più evidente, esse non hanno una uguale importanza. A tal riguardo è chiaro che l'aspetto sincronico domina sull'altro, perché per la massa parlante è la vera e unica realtà. Chi parla una lingua non parla la storia della lingua, parla la lingua come si parla in quel certo momento. Accade lo stesso per il linguista. Se il linguista si colloca nella prospettiva diacronica, non percepisce più la lingua, ma soltanto una serie di avvenimenti che la modificano. Si afferma spesso che niente è più importante del conoscere la genesi di questo stato, di uno stato dato. Questo è vero in un certo senso. Le condizioni che hanno formato questo stato ci illuminano sulla sua effettiva natura e ci pongono al riparo da certe illusioni. Ma questo prova solo che la diacronia non ha il suo fine in se stessa. Si può dire della diacronia quello che si è detto del giornalismo. Porta a tutto, purché se ne esca fuori. Non è una tutta molto carina per i giornalisti, ma come forse voi potete immaginare, io la sottoscrivo in pieno. La sincronia, allora, anche i metodi di ciascun ordine sono, diciamo, diversi, e in due modi. La sincronia non conosce che una prospettiva, che è quella dei soggetti parlanti. Che lingua parliamo noi adesso? Che italiano parliamo? Siamo dei soggetti che parlano? E tutto il suo metodo consiste nel loro raccogliere le loro testimonianze. Per sapere in quale misura una cosa è una realtà occorrerà e basterà ricercare in quale misura essa esiste per la coscienza dei soggetti. Se io so che c'è un certo modo, che io uso un certo modo di concordare, io e tutti gli altri, insomma, usiamo un certo modo di concordare i tempi o i modi dei verbi in italiano, per esempio se io faccio una adesso dico una delle cose più so bene che è una bestialità, che bestialità nel senso che non, la maggioranza dei parlanti italiani oggi non sono in grado di fare la semplice relazione che farò io adesso, però allora, per esempio che se io devo costruire un periodo ipotetico in cui ho un'ipotesi e una tesi, diciamo, se io avessi studiato filosofia, oggi avrei una cattedra alla statale, ok? Diciamo questa frase, supponiamo che sia vera. Se la frase deve esprimere questo concetto, io devo usare per il verbo avere un congiuntivo imperfetto, avessi studiato, se io avessi studiato. Mentre nel verbo della proposizione principale, il verbo essere, il verbo principale, ho usato il verbo essere, non mi ricordo, devo usare il condizionale presente. Quindi c'è una relazione di modi e tempi che collega in una frase che abbia quella struttura e che quindi indichi una conseguenza presente di una premessa passata, io devo usare una relazione modo temporale tra il verbo che esprime il passato al congiuntivo imperfetto e il verbo che esprime lo stato del presente al condizionale presente. Avessi studiato, sarei. Se io dico, se avrei studiato, fossi, faccio un bel errore, che ovviamente viene, cioè, che viene ripetuto in continuazione. Allora, lui dice, andiamo a vedere, allora, lui, questa è diacronia, questa è sincronia. Io sto studiando la struttura dell'italiano, in un certo momento c'è una legge, che è quella delle proposizioni ipotetiche, del primo tipo, diciamo, della realtà, o del no, questa in realtà è controfattuale, perché se io avessi studiato, quindi è qualche cosa che non... Che una domanda. Non... Cosa? C'è una domanda. Dilla, c'è. Ma dunque, questa sincronia sia solamente il linguaggio, la lingua nel termine corretto, ora si anche nel termine corretto, perché tante persone il linguaggio, sì. Il linguaggio corrente sbagliano. Questo tipo di errore, okay. Usando l'imperfetto. Certo. Allora, ho scelto questo esempio apposta perché è un esempio, come dire, controverso. L'esempio dimostra che, come dire, che c'è una correttezza e una scorrettezza dell'uso. Attenzione, ma che non riposa. Attenzione, non riposa, l'arbitrarietà del segno rimane intoccata, non riposa in qualche misteriosa ragione, per cui perché questo esprime meglio, non esprime un cazzo di beh, cioè è una cosa totalmente arbitraria il fatto che lì ci debba essere un congiuntivo passato, un congiuntivo imperfetto e là ci debba essere un condizionale, come dire, presente. Inoltre, la tua, come dire, domanda si risolve facilmente, tranne casi particolari, cioè tranne casi di persone che evidentemente in maniera cosciente hanno scelto di fare il male, quindi di non usare mai il congiuntivo o di cambiare il congiuntivo con il condizionale, al di là di questi casi, anche l'italiano medio che sbaglia questi tempi, e sono concordo con te, può essere anche quasi sicuramente la maggioranza dei parlanti italiani, tu dici, non so, ma comunque sì, ma anche la maggioranza. Però messo di fronte a una, dici guarda però scusa, ma sai che dice così, questo ti risponde sì, perché lui la dice così perché c'ha, però se ci riflette un attimo, ti ripeto, tranne alcuni casi che ci possono essere, quindi questo indica semplicemente che bisogna avere cautela nel prendere la produzione linguistica spontanea di una qualunque persona come e infilarla dentro il database ipotetico della produzione linguistica di una certa epoca. È ovvio che la produzione linguistica va, come dire, virgolette, ci vuole un po' di inchiesta, cioè bisogna fare un po', bisogna che la persona che pronuncia quella frase sia realmente consapevole che quella frase è, e nella gran parte dei casi, se tu fai notare a uno che ha fatto un errore grammaticale, questa persona ammetterà di averlo fatto, dirà ah, sì è vero, sì hai ragione tu, si dovrebbe dire così. Quindi occhio, hai capito, non è così, non è un ostacolo così insormontabile, non so se, se sei più o meno, se posso averti convinto. No, non pensavo fosse un ostacolo, pensavo fosse una... No, perché non è così interessante. Occhio, non è così interessante. Allora, nel senso che uno dice, ma perché non c'è la stessa logica di decade e decennio? Perché uno dice, vabbè, se c'è una pressione sociale così forte per scambiare il congiuntivo con il condizionale, perché non è successo? Allora qui sì, allora forse ci sono, si può dire che ci sono alcuni aspetti diacronici, cioè perché ci sono delle cose che sono un po' più radicate nella nostra, come dire, storia. Allora diciamo, la diacronia dell'italiano è che, come dire, l'italiano è fra tutte le lingue neolatine, è quella che maggiormente ha mantenuto un legame con il latino, sia dal punto di vista sintattico che dal punto di vista lessicale, più dello spagnolo e più del francese, che sono le altre due. Grappoli sono quelle più piccole, insomma. Più dello spagnolo. Lo spagnolo ha un rapporto con il latino molto forte, ma con un latino bloccato a un certo momento. Hanno le desinenze come il latino, gli F, le cose, eccetera. L'italiano è stato levigato di più dal passaggio delle acque, diciamo, dei torrenti di montagna, che hanno levigato i ciottoli, che hanno reso lisce le pietre, però risponde di più alla, come dire, struttura. E siccome il latino, a differenza del greco, è una lingua con una sintassi fortissima, ferrea, imperiale, proprio cazzo, poi vabbè, anche lì da vedere, perché insomma diciamo, il latino di Cicerone, Cesare, diciamo il latino del primo secolo avanti Cristo, grosso modo, che è quello che si studia nelle scuole, si studiava nelle scuole, diciamo, italiane. Il latino di Ennio è una cosa, cioè il latino di 4 secoli prima di Cristo. Cioè, mentre i greci già costruivano questa perfezione della loro lingua, che però è una lingua fortemente anomica, senza grandi strutture, cioè molto più simile all'inglese, che non è, mentre il latino giustamente è più simile al tedesco, da una serie di punti di vista della pesantezza e della obbligatorietà e dell'imperiosità della sintassi. Allora, insomma, ci sono delle ragioni per le quali come dire, l'italiano corretto è quello e non è, diciamo, un altro. E quindi per il momento non ha senso fare uno studio sincronico dell'italiano scorretto o di qualunque lingua scorretta. Non ha senso semplicemente perché se il criterio fondamentale è la coscienza del parlante, la coscienza del parlante è facilmente corretta in quel caso. Cioè è facile, relativamente semplice, spiegare ad un parlante e il parlante accetterà, dirà sì è vero, hai ragione, sono un capone, ho detto una roba sbagliata, ho detto ignorante. Così insomma ti dirà delle cose così, quindi non è, cioè facciamolo sulla ma questo non vuol dire che, come dire, che ci sia una sorta di imperio della grammatica come ci hanno insegnato quando eravamo piccoli, è semplicemente l'uso che ha costruito questa, diciamo, grammatica, no? La grammatica italiana è stata costruita da questa cosa. È esattamente così che cambiano le lingue, no? Certo. Inizia col parlato. Ovviamente, e poi rimangono parlate, cioè cambia il parlato, poi cambia anche lo scritto, ma insomma lo scritto, ma lo scritto semplicemente, anzi per certi versi lo scritto è più, cioè lo scritto letterario, può essere anche più libero del, cioè, come dire, parlato. Se voi adesso, lo so che voi non leggete Gadda, ma insomma se vi capitasse mai di leggere Carlo Emilio Gadda, trovereste che, insomma, Gadda, che è un... sicuramente il più grande scrittore del Novecento italiano, pensate, lo dico, voi siete stranieri, non so, però è una cosa interessante anche per voi, perché per fare i suoi romanzi ha messo insieme una quantità di registri e quindi di sistemi, di origini linguistiche differenti all'interno dell'italiano, addirittura no, in un romanzo addirittura con lo spagnolo, poi con il latinoamericano, insomma. Ma diciamo, prendiamo la Dalgisa da un lato e il pasticciaccio dall'altro, e e troviamo una commistione tra, nel caso della Dalgisa, milanese e italiano, milanese. Ora, il milanese, cioè che l'Italia è una cosa complicata, perché se no l'Italia ha, c'ha una tradizione di scrittura dialettale, soprattutto Milano, vabbè, a parte sono Goldoni con il veneziano, ma nell'Ottocento con Giovanni Gioacchino Belli a Roma e con Gian Battista Porta a Milano. Sono due grandi poeti che hanno scritto in dialetto. Allora, La Dalgisa è un libro molto bello, soprattutto La Dalgisa, il pezzo chiamato La Dalgisa, insomma, che è una specie di novella, cioè di racconto lungo, in cui c'è questa signora, una specie di monologo, così, della Dalgisa, che è fatto in cui lei parla milanese e i pezzi di commento dell'autore sono invece in italiano. Il pasticciaccio è una roba ancora più complicata perché è una mescolanza, cioè la struttura del libro è italiano, ma in realtà è ambientato a Roma e quindi c'è una sorta di registro romanesco medio, ma il protagonista non è neanche romano, ma è un molisano, uno del Molise, il commissario Ingravallo, e quindi voi avete il molisano. Quando parla Ingravallo, parla con la grafia, con la pronuncia, come noi possiamo ricostruire e pensare, di uno del Molise. Quindi ci sono tre registri linguistici addirittura, diversi tra loro, molto diversi, perché il molisano c'entra nulla con il romanesco, con il dialetto romano. Quindi c'è l'italiano, il romanesco, il dialetto romano, romanesco, e il dialetto molisano. Quindi vedete che, cioè, si può fare un registro, ed è una cosa più ricca, nessuno può pensare di costruire una grammatica della lingua italiana sulle opere di Gadda, su queste opere di Gadda. Poi addirittura nella Cognizione del dolore, che è il suo ultimo, insomma, non è ultimo, no, ultimo no, in realtà l'ha scritto prima, insomma, comunque, che è il suo più bel romanzo, secondo me, insomma, c'è la sua storia dei rapporti con sua madre, eccetera, ma proiettata su di un paese immaginario del Centro America, anzi, una coppia di paesi chiamati Maratagal e Parapagal, che ovviamente sono il Paraguay e l'Uruguay mescolati nella cosa, no? E il protagonista è un hidalgo, un gentiluomo di campagna, povero, ma insomma, che si chiama Gonzalo Piro Butillo del Tino, e il libro è scritto in italiano ma con degli inserti spagnoli, spagnoleggianti, pieno di parole, perché Carlo Emilio Gadda è stato vari anni in Argentina quando faceva l'ingegnere, che era il suo lavoro, con cui si guadagnò da vivere per un certo periodo, costruiva centrali, fabbriche, no? Così in Argentina, quindi conosceva bene la cosa. Quindi vedete che, cioè, qualcuno come fa a fare una grammatica basandosi su quella roba lì, cioè, piena di... Quindi al limite la lingua scritta a volte è più lì, cioè ti consente di fare delle commistioni, dei pasticci, delle cose, però molto gradevoli da un certo punto di vista. Insomma, adesso non so in altre tradizioni letterarie, ma sicuramente ogni tradizione letteraria ha delle cose di questo tipo, insomma, per non parlare di Joyce, cioè poi sono, diciamo, il personaggio più gigantesco da questo punto di vista è Joyce, che già nell'Ulisse ha messo, ma insomma Finnegan's Wake non è scritto in inglese. Finnegan's Wake è scritto su una base molto incerta di inglese e un agglomerato di lacerti, di pezzetti, di robe attaccate, cucite, mescolate, proveniente da decine e decine di lingue diverse del mondo, dal latino, dal greco, da quasi tutte le lingue indoeuropee possibili, da quelle che conosceva, da quelle che James Joyce conosceva bene, quelle che conosceva meno bene, eccetera. James Joyce era ovviamente un grande paranoico e non aveva altro da fare nella vita che questo, obiettivamente, oltre anche a maltrattare la moglie, come ovvio, a corteggiare le mogli degli altri, per esempio quella di Italo Svevo, e a fare tutta una serie di altre cose per cui può essere considerato moralmente riprovevole, ma noi, cioè io personalmente lo so, so che le signore non mi vorranno bene per questo, ma io gli perdono tutto, perché uno che ha scritto delle cose così sublimi come sono Ulysses e quel pochino che sono riuscito a leggere, ovviamente di Sigmund Zweig, perché è difficilissimo da leggere, può fare quello che gli pare, perché va bene, insomma, mi hai vabbè, ok, mi hai fatto divagare, comunque te l'ho dietro mi spiegato. Allora, lo studio sincronico non ha per oggetto tutto ciò che è simultaneo, ma soltanto l'insieme dei fatti corrispondenti a ciascuna lingua. Nella misura in cui ciò sarà necessario, la separazione andrà sino ai dialetti e ai sottodialetti. In fondo il termine sincronico, ecco, non è del tutto preciso. Non è del tutto preciso, perché in sincronia, sin, vuol dire sincronia, vuol dire sin, insieme, in greco, chronos, tempo, quindi ciò che ha lo stesso tempo, no? Mentre dia vuol dire passare da una dielettrico, diaforico, diaforia, passare da una cosa a un'altra, quindi ciò che trascorre nel tempo. Allora, in realtà il termine sincronico non è del tutto preciso, dovrebbe essere rimpiazzato con quello, a dire il vero, un po' lungo, di idiosincronico. Perché gli aggiunge idio? Vediamo chi lo capisce. Perché invece di sincronico dice idiosincronico? Allora, vi ho già introdotto, sì, un termine con il prefisso idio, vi ho detto che non vuol dire idiota, idiota deriva anche da quello naturalmente, ma vuol dire qualcosa, idio, la idiosincrasia è una sincrasia, cioè una sorta di configurazione di qualunque tipo che è idios, cioè che ha delle ragioni specifiche. Allora, perché dice idiosincronico invece che sincronico? Dovete aver capito ormai, ragazzi, c'è un solo segreto nella linguistica fossiliana. Certo, è sempre quello. Perché è un idios, perché se io non gli metto idios, potrebbe sembrare che ci siano delle leggi generali, no? Per cui la sincronia va fatta in un certo modo. No, sono leggi particolari, idios, non sono koinos. Idios cosmos, non koinos cosmos. Il mondo è un mondo particolare, in cui c'è una causa specifica che ha creato quella cosa, che non, magari non è correlata con le altre. Quindi lo studio, questa dimensione della linguistica è una dimensione più precisamente idiosincronica. Possiamo fare a meno dire sincronica, ma dobbiamo ricordarci in realtà che Saussure introdusse questa cosa di idio. Va bene, adesso fa un sacco di esempi, è inutile che fate gli esempi, perché voi, se no, chi è che sa il greco qua? Allora, quindi già. Si è dimenticata, io lo so poco perché non l'ho fatto per conto mio e non ho. Poi fa conseguenze della conclusione, vabbè, facciamo le conclusioni, va. Allora, la linguistica si trova così di fronte alla sua seconda biforcazione. Da prima si è dovuto scegliere tra la lingua, la langue e la parole. Ed eccoci ora al bivio che porta da una parte alla diacronia e dall'altra alla sincronia. Una volta in possesso di questo doppio principio di classificazione, si può aggiungere, attenti, che tutto quanto nella lingua è diacronico, non lo è che per la parole. Tutto quanto nella lingua è diacronico, non lo è che per la parole. Nella parole si trova il germe di tutti i cambiamenti, perché la parola è il gesto, è l'atto di parola, di ognuno di noi. Il germe del cambiamento sta nella parola. Se uno non comincia a dire decade invece di decennio, non ci sarà nessun cambiamento a livello lessicale. Qualcuno comincia e rapidamente decennio e decade si impone anche nel significato di decennio, cosa che prima non c'era. Ciascuno è inizialmente lanciato in un certo numero di persone prima di entrare nell'uso. Il tedesco moderno dice, chi sa il tedesco qua? Tu no, tu sotto. Il tedesco moderno dice, ich war, wir waren. Io ero, noi eravamo. No, lo dico per quelli che non lo sanno. Non perché. Il tedesco antico, sino al XVI secolo, diceva, ich was, lui diceva war, c'è una S finale. Ich was, wir waren, al plurale invece c'è già la S. E l'inglese ancora oggi dice, I was, we were. come si è realizzata questa sostituzione di var a vas, siamo in tedesco. Taluni influenzati da Varen hanno creato var per analogia, era un fatto di parola, qualcuno l'ha fatto, quindi era un fatto di parola. Questa forma, spesso ripetuta e accettata dalla comunità, è diventata un fatto di lingua, ma non tutte le innovazioni della parola hanno lo stesso successo. E finché restano individuali, non dobbiamo tenerne conto, poiché noi studiamo la lingua. Esse rientrano nel nostro campo di osservazione soltanto al momento in cui la collettività le ha accolte. Un fatto di evoluzione è sempre preceduto da un fatto, o piuttosto da una moltitudine di fatti, polinesi non c'entra, moltitudine di fatti similari alla sfera della parola. Ciò non limita in niente la distinzione stabilita più in alto, che si trova anzi confermata, perché nella storia di ogni innovazione si incontrano sempre due momenti distinti. Il momento in cui sorge presso gli individui, la parola, e il momento in cui diventa un fatto di lingua, esteriormente identico ma adottato dalla collettività. Lo schema seguente indica la forma razionale che deve prendere lo studio linguistico. Ma a questo punto spero che sia ovvio per tutti. Noi la usiamo così. Eccolo qua. Linguaggio. Lang parole, lang sincronia diacronia. Bisogna riconoscere che la forma teorica ideale di una scienza non è sempre quella che le impongono le esigenze della pratica. In linguistica queste esigenze sono più imperiose che altrove. Esse scusano in qualche misura la confusione che regna attualmente in queste ricerche. Anche se le distinzioni qui stabilite fossero ammesse una volta per tutte, non potrebbe venire forse imposto, in nome di questo ideale, un orientamento preciso alle indagini. Va bene, qua parla dello studio sincronico del francese antico, e lo possiamo lasciare. Le due parti della linguistica così delimitate costituiranno una dopo l'altra l'oggetto del nostro studio. La linguistica sincronica si occuperà dei rapporti logici e psicologici colleganti tramite termini coesistenti e formanti sistema, così come sono percepiti dalla stessa coscienza collettiva. La linguistica diacronica studierà invece i rapporti colleganti termini successivi non percepiti da una stessa coscienza collettiva, perché la coscienza collettiva non la sa per forza la storia della lingua, la deve studiare se vuole, e che si sostituiscono gli uni agli altri senza formare sistema tra loro. Va bene, allora, il valore ve l'ho già fatto e mi sa che ci vuole un'altra lezione, quindi mercoledì finiamo, facciamo una cosina ancora sul valore e poi facciamo un attimo almeno sintagma e paradigma. Dopodiché abbiamo finito Saussure. Basta, non ho niente da dirvi per oggi, perché devo correre a Macao.